Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Bologna, città metropolitana ricca di appuntamenti, appuntamenti anche già iniziati seppur da poco, ci portano a Crevalcore, teatro di paglia. Abbiamo già conosciuto la realtà di Sementerie Artistiche che tornano protagoniste per questo Last Minute. Una piccola citazione anche nella lettura delle prime pagine, mi correggo, non era la prima pagina del Domani ma della Stampa di Torino, che aveva qualche dubbio sul genere di Shakespeare. Forse una signora Shakespeare, chi lo sa, poco importa, ho aggiunto, anche perché il talento immenso tutti i tempi del drammaturgo o drammaturga non cambia tutt'altro. Notti delle Sementerie 2023, l'edizione speciale sarà fino al 9 luglio, seppur iniziata dal primo, con la co-direttrice artistica Manuela De Meo, che rispetta i patti, è mattiniera e puntualissima. Buongiorno Manuela. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Ecco, è anche sorridente, quindi guarda, missione compiuta, direi, chi ben comincia, no? Si dice. Alla grande, è così. Manuela, questa mattina ho iniziato subito leggendo le prime pagine e trovando questo dubbio su Shakespeare. Penso che anche per te poco importi, resta il talento immenso del drammaturgo o della drammaturga. Lo troviamo di stagione perché è il capolavoro Sogno di una notte di mezza estate. Allora, a questo punto, il contesto particolare, teatro di paglia, la notte di mezza estate, questo inizio che per me, cioè, pensa che io il Sogno di una notte di mezza estate lo vidi a teatro che avevo 4-5 anni. Rimasi scioccato all'inizio, però subito pensai, questo veramente è il numero uno tutti i tempi. Ammetto che però la notte non dormì, renditi conto, avevo 4-5 anni con queste streghe, uno ci rimane un po' così. Sì. È più, invece, se mi presentassi adesso, e capiterà magari, cosa avrò modo di vedere? Sarò più tranquillo, immagino, anche per un'età purtroppo di 50 anni più avanti, e quindi avrò modo di goderne in maniera più tranquilla. Però ci puoi dire qualcosa di più a proposito di questa edizione speciale, Manuela? Certo, allora, il Sogno di una notte di mezza estate si fa nel teatro di paglia, ma non solo, perché è uno spettacolo che abbiamo costruito sugli spazi che ci caratterizzano. Noi siamo all'interno di un'azienda agricola e quindi il teatro di paglia naturalmente è uno di questi che ci accompagna fin dalla prima edizione, ed è di paglia proprio perché siamo all'interno, sì, di un'azienda agricola. Ma lo spettacolo è itinerante e ha tre spazi diversi in cui si sviluppa, quindi invadiamo proprio tutto lo spazio che abbiamo a disposizione, e appunto, ed è un sogno che si cala proprio all'interno di questo contesto agricolo, per cui i regnanti di Atene che si sposano diventano in realtà un imprenditore della bassa, che ha un po' di intrighi, diciamo, interessi di unire due aziende per appunto interessi personali. Quindi insomma abbiamo cercato di avvicinare il capolavoro, come si suol dire, perché in effetti è così, ed è una macchina teatrale meravigliosa, perfettamente incastrata, che tutte le volte che si ha la possibilità di vedere messa in scena, davvero, e sono poche perché gli personaggi sono tanti, la vicenda è molto intricata e complessa, e quindi da leggere quasi uno perde il filo. Invece quando poi la si dispiega tutta davanti agli occhi, effettivamente è proprio una macchina che si incastra perfettamente, e quello che abbiamo cercato di fare è stato proprio quello di cancellare un po' di questi 400 anni che ci separano da questo drammaturgo o drammaturga che fosse Shakespeare, e calarlo appunto in un contesto più riconoscibile e anche a livello di testo, senza togliere la poesia e il appunto l'incastro delle scene, abbiamo cercato un linguaggio che potesse essere più asciutto e efficace alle orecchie dei nostri giorni, insomma. Certo. perché è estremamente articolato il lavoro, e oltretutto troviamo un aspetto che, come definisco io, avete capito perché definisco tutti i tempi, perché nonostante le epoche vi è una lettura originale ogni epoca, se vogliamo, con la traccia chiaramente scritta e portata dal grandissimo Bardo, però ovviamente il termine tutti i tempi è chiaramente per definirlo nell'entrata del mito. Il mito, come ben sapete, non conosce né spazio né tempo, è sempre e comunque, e Sogno di una notte di mezza estate corrisponde, secondo me, esattamente a questa definizione. Chi troviamo in scena, Manuela? Allora, in scena troviamo Pietro Traldi e me, che diciamo siamo attori e quindi ne abbiamo ovviamente approfittato alla grande. Poi c'è Esther Spassini, che è con noi da fin dall'inizio, diciamo, delle notti e della nostra storia. Ci sono Julio Dante Greco e Clelia Cicero, che sono attori con cui collaboriamo da diversi anni. Ci sono Irma Ridolfini e Paolo Zaccaria di Naia, che è una realtà a noi, diciamo, vicina, e che ci siamo uniti appunto per unire le forze e fare un grande sogno, ma ci sono anche in realtà un gruppo di cittadine e cittadini che hanno partecipato a 5 incontri che abbiamo organizzato di avvicinamento al teatro, che sono partiti proprio dall'inizio e sono arrivati alla messa in scena. C'è anche un gruppo di invece allievi, attori, che appunto sono nostri allievi, nostri e di associazione Naia, che entrano a far parte dello spettacolo, e abbiamo cercato di costruire, con la regia di Federico Grassini e il lavoro al testo sia di Federico che di Matteo Salimbeni, di creare appunto la possibilità di mantenere un livello di qualità, diciamo, dello spettacolo alto e professionale, ma potendo inserire anche all'interno appunto persone che non fanno magari parte tutti i giorni di questo mondo, ma che proprio sono il nostro pubblico, e questo proprio per rompere una barriera e riavvicinarci, anche perché dopo gli anni di difficoltà e di arrampicamento sugli specchi, cercando modi di restare in contatto con il pubblico mentre i teatri erano chiusi, abbiamo cercato proprio di riavvicinarci attraverso il teatro fatto proprio, certo, il teatro in scena. E quindi siamo tanti. È già andato in scena per due appuntamenti, l'uno e il due. Sì, il prossimo sarà il 6. 7, 8, 9 luglio alle ore 21. Ho una rubrica apposita per il teatro che è venerdì, magari ne daremo nuovamente citazione per il weekend col Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, protagonista Teatro di Paglia, Sementerie Artistiche, siamo a Crevalcore. Aggiungo per la precisione che è in via Scaglia Rossa 1174, come ho già detto, Crevalcore, e tutto ciò alle ore 21. Che dire, esatto. Io ti ringrazio tantissimo, Manuela, per questa grazie. Bella conversazione. Poi quando dico si parla di Shakespeare io ci sono sempre. Vai. Dico l'ultimissima cosa proprio per chi viene da Bologna e non ha la macchina, che appunto è un po' lontano, che il 7 abbiamo una navetta gratuita che parte dall'autostazione di Bologna e ritorna lì. Quindi alle 19, se qualcuno ha bisogno, scrive a prenotazioni@sementerieartistiche.it e ha la possibilità di usufruire di questa opportunità. Ok, e io lo ribadirò nella giornata appunto del 7, che mi pare sia venerdì. Non vorrei, esattamente. Non sono bravissimo, ma questa volta, ispirato dalla grande drammaturgia, sono riuscito ad azzeccare la data. Io ti do appuntamento a un altro incontro col Teatro di Paglia curato da Sementerie Artistiche. Ti auguro una buona giornata e ti ringrazio per la partecipazione al nostro strano last minute di oggi, lunedì 3 luglio. Grazie, Manuela. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Ciao. A presto. Ciao. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao. You know pain that I feel, and it just won't let up. Oh, it feels like the sky is falling. the clouds, clouds are closing in. Perdona il mio cuore, lui è Bobby Buono, ma che il suo ultimo lavoro prima di andare in un'altra dimensione, The Bravest Man in the Universe, e il brano Please Forgive My Heart. Forgive my heart. It's not that the problem. L'ascoltiamo quindi per intero questo brano molto bello di New Soul, tornando in diretta dopo la pubblicità con i Magazine. E ribadisco il 333-180-9494 per la pubblicazione della settimana. A tra poco, buon ascolto. It lingers, lingers.